Signore e signori, Fausto Leali! Femmena, tu si nama la femmena, chi sto che batte chiagna, lacrime infamità. Femmena, si tu vece una libera, mentre segato là. Pozzi chiù gamba. Femmena, si docevo mio zio, però sta faccia d'angelo le serve per ingannare. Femmena, tu sia più bella femmena, te voglio bene, voglio, non le posso scordare. Se avesse fatto a nato, dire che è fatto a me, come l'avesse acceso e vuol sapere perché, perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta venoma oneste come a me. Bene,